Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Nel 1945 mi vedo in Piazza Loreto a Milano ad assistere allo spettacolo di Mussolini, Claretta e i gerarchi appesi per i piedi ai relitti di un chiosco di benzina distrutto dai bombardamenti. Non provo emozione, ho solo 15 anni, figlio della guerra assuefatto a notizie e immagini cruente, immagini di morte. Mi coinvolse una situazione che oggi sarebbe traumatica per la mia coscienza. Stavano appendendo il corpo di Farinacci. Il giubbotto della tuta da ginnastica che indossava gli si rovesciò verso il capo ed apparve il torace nudo, madido di sudore. Il sudore della morte, pensai. La gente informata diceva che era stato catturato quella mattina e tra i cadaveri fucilato da poco sul posto. Dicevano anche che nei giorni successivi al 25 aprile avevano già passato per le armi altre 3 o 4 persone somiglianti alla vittima. Poi, con un recupero di pudore, qualcuno raggiunse con la scala la Petacci già appesa, alla quale si era rovesciata la gonna ed era visibile uno slip bianco. Un gesto fuori copione, un parziale recupero di sensibilità umana. Ermanno. Nei giorni scorsi, in occasione del Salone del Mobile, la città di Milano si è riempita di migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Peccato che a livello di trasporto pubblico la città non si sia dimostrata in grado di reggere all'impatto. Impossibile muoversi nelle strade intasate dal traffico. Ma viaggiare con i mezzi pubblici era ancora peggio. Treni della metropolitana sovraffollati fino all'inverosimile, una marea umana che iniziava fin dalle scale di accesso al metrò e passeggeri costretti a lunghe attese, nella speranza di poter salire a spintoni in uno dei treni successivi. Possibile che l'ATM, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici a Milano, non abbia pensato che forse sarebbe stato il caso di intensificare le corse? Recentemente i dipendenti dell'ATM, per protestare contro l'eccesso di lavoro straordinario al quale sarebbero costretti, hanno iniziato uno sciopero bianco, riuscendo a lavorare ancora meno del solito. Sembra impossibile, ma ce l'hanno fatta. Qualche anno fa il Comune di Milano aveva scoperto che nei giorni successivi agli scioperi le ore di lavoro straordinario segnate dai dipendenti ATM aumentavano in modo esponenziale. Sospettando che questo fosse un facile modo per recuperare i soldi persi con i numerosissimi scioperi, alcuni dei quali fatti anche senza autorizzazione, il Comune aveva cercato di mettere un tetto agli straordinari. Per tutta risposta, i dipendenti dell'ATM avevano scioperato per protesta. E ora che, grazie al ricatto degli scioperi, sono riusciti ad ottenere quello che volevano, improvvisamente gli scioperi sono diminuiti, per ora, fino al prossimo loro ricatto, e di conseguenza sono diminuiti anche gli straordinari. E adesso scioperano perché non vogliono farne. E intanto a pagarne le conseguenze sono, come sempre, i viaggiatori. A questa situazione di disagio si sommano i normali ritardi causati dalla pigrizia dei dipendenti ATM. Un tipico esempio lo si può vedere quando c'è il cambio turno dei macchinisti. Il macchinista che deve iniziare il nuovo turno è quasi sempre in ritardo. Anziché farsi trovare sulla banchina, deve essere chiamato al telefono dal collega che ha appena finito il turno. E intanto il metrò è fermo e i passeggeri devono aspettare 2, 3, 5 minuti e oltre. Finché, con molta calma, arriva il macchinista, camminando lentamente, come se stesse passeggiando sul lungomare. Inutile protestare. Hanno sempre ragione loro, nella consapevolezza di essere protetti dai sindacati pronti a giustificare a suon di scioperi qualunque loro nefandezza. Luca. Desidero, da imprenditore del settore turistico che opera nei mercati del Nord Europa, fare alcune considerazioni sull'ultima legge regionale lombarda in tema di consumazioni immediate dei prodotti di pasticceria, gelateria, pizzeria, eccetera. Nell'immaginario dei viaggiatori nord-europei, l'Italia è il paese delle 100 città, vivibili e vive, dove si può gustare un buon gelato artigianale seduti su una panchina della piazza, dove i nostri anziani giocano a bocce, o su un lungo lago che guarda sulle torri medievali della riva opposta. Pare che da oggi questo non sarà più possibile in tutta la Lombardia. Non si colpisce più colui che sporca gettando le cartacce per strada e che lo potrà fare comunque gustandosi un gelato multinazionale identico a quello che compra sotto casa e incartato in 1000 colori, ma colui che vive sul territorio e produce in maniera tradizionale cibo e specialità, che solo lì si possono gustare. Mettiamola come si vuole, ma un cannolo ha il suo gusto migliore in una piazza del Palermitano, la salsiccia cruda nelle campagne toscane o umbre e un trancio di pizza fumante sul selciato di un qualsiasi struscio serale a Roma come a Napoli. Ma anche sui laghi lombardi o sui Navigli a Milano il gusto di passeggiare e godersi un boccone freddo o caldo non dovrebbe essere sconosciuto. Sui media e sui quotidiani internazionali, ove le nostre istituzioni da una parte investono denari pubblici in pubblicità, a volte in co-marketing con le aziende, da una parte si reclamizza l'Italia con foto di ragazze sorridenti che gustano gelati e aperitivi all'aria aperta, e dall'altra si scrive che ciò è, in alcuni luoghi, vietato dalla legge. Dal punto di vista di un imprenditore del turismo, questa norma assomiglia molto a un autogol, e in tempo di crisi non se ne sente certo il bisogno. Un viaggiatore che si trova a Sirmione non può godersi un gelato all'aria aperta, ma a Peschiera tutto ciò è consentito. A voler essere malevoli, si potrebbe pensare che le multinazionali vogliono rendere la vita difficile a chi invece ha un'attività che vive, oggi spesso sopravvive, in maniera tradizionale. Il cliente entra, paga e si gode il prodotto in piena libertà. Invece di scrivere nuove norme, non sarebbe più costruttivo far rispettare quelle vigenti? Non era forse sufficiente far rispettare l'obbligo di non gettare cartacce per strada e di non far defecare i cani sui marciapiedi? Leggo che la legge regionale lombarda prevede che i sindaci possano decidere la deroga alla legge per il loro comune. Ma a livello di comunicazione e sulla stampa internazionale, farà più notizia la splendida norma regionale oppure la deroga del sindaco di Limone sul Garda, di Bellagio, Sirmione, Varenna, eccetera? La tanto sbandierata deregulation o l'abolizione delle province o delle regioni consentirebbe certamente all'Italia e agli italiani di creare più ordine nella vita civile in Italia. Ma evidentemente i rappresentanti del popolo ritengono che l'ordine sia sinonimo di divieto invece che di responsabilità. Basta dirlo forte e vedremo quanti turisti continueranno a scegliere di venire in Italia a mangiarsi un gelato. Filippo. In merito alla legge sui kebab, una cosa non è stata detta. Il problema sorge perché c'è stata una mancanza totale di norme che regolassero l'apertura di queste gastronomie africane. In più, è noto che i kebab sono covi che raramente osservano le leggi igieniche e spesso vengono finanziati con lo spaccio di droga. Emiliano. Perché non applichiamo le leggi che ci sono in materia sanitaria, invece di creare paletti che scatenano solo discussioni di razzismo religioso o culturale? Vietare una cosa comporta, di conseguenza, vietarne altre che fanno parte della nostra cultura. Gelati, pizze, lecca-lecca, fritture nei mercati, patatine. Ciro. Condivido l'opinione di chi dice che in Italia manca l'educazione. Per baro altro. Limitazione degli orari. La realtà è che delle multe e delle leggi si fa un business. Cominciamo a sgridare i bambini quando gettano per terra le immondizie o quando urlano in un luogo non idoneo. Cominciamo a farlo fare anche ai vigili, ma non con le solite multe che servono per rimpinguare le casse del comune. Cominciamo a riprendere i ragazzi quando non rispettano le regole. Una notte in carcere può essere molto più efficace rispetto a multe che, per assurdo, è poi il genitore a dover pagare. Io sono contro la liberalizzazione della droga, ma non sono per la limitazione totale della libertà. È l'eccesso che fa male alla democrazia. In Italia abbiamo leggi per l'antiriciclaggio, l'antimafia, l'alcol, eccetera, ma la maggior parte di queste leggi non fa che aumentare la burocrazia, creando delle difficoltà per il cittadino onesto, senza peraltro risolvere i problemi, perché il delinquente rimane tale, mentre l'onesto cittadino diventa matto per procurarsi tutte le documentazioni. Continuiamo a sentire politici che chiedono maggiori controlli, più ispettori del lavoro, più forze dell'ordine. Ma non possiamo avere una persona che lavora, una che la controlla e un'altra per le parti burocratiche. Non servono ispettori pubblici. Basta mettere in pratica le leggi. Chi sbaglia, paga. Stefano. Vorrei dire la mia sull'argomento kebab. A mio modo di vedere, alla radice del problema c'è il fatto che l'Italia è un paese vecchio. Ci sono troppi vecchi, al cospetto di pochissimi giovani. Infatti, qualsiasi cosa facciano i giovani dà fastidio. Li si vuole consumatori per motivi commerciali, ma che poi non rompano le scatole. E questo della scuola alle polisportive, alle discoteche e così via. Vi meravigliate del divieto dei kebab, ma in fondo è lo stesso problema che c'è nei cortili dei palazzi condominiali. Un ragazzino non può giocare nei cortili e non si sa perché deve sempre andare da un'altra parte. Ippolito. Ho 32 anni e sono nato e cresciuto in Brianza, dove l'unica persona diversa era un compagno delle elementari, adottato. Per noi era diverso. Crescendo, viaggiando, ho visto città come Londra e Parigi, dove c'erano persone provenienti da tutto il mondo. Ero ignorante. Ora mia figlia di un anno ha come amichetto un bimbo di colore. Sono contento che questa sarà la normalità. Noi siamo in un paese arretrato in quanto ad integrazione, un paese quindi ignorante, perché non conosce le altre culture. I tifosi sono semplicemente stupidi quando fanno dei cori per offendere e ferire le persone per il colore della pelle. Fausto. Sono un italiano che vive in Cina, nella città di Shenzhen, che confina con Hong Kong. Volevo commentare rapidamente due cose. Sento che si fa un gran parlare dell'eccessiva presenza di Berlusconi sul luogo del terremoto. Vi assicuro che la polemica è tutta italiana. Qui la CNN di Hong Kong e le TV locali preferiscono parlare dei due dottori clown che operano nel campo dei terremotati. Hanno mandato questo servizio parecchie volte. Ci vedono un po' così, forse. Vi giro una domanda che mi hanno fatto alcuni amici cinesi. Noi sentiamo sempre parlare del primo ministro francese e conosciamo bene il nome della ministra tedesca perché vengono spesso in Cina. Francia e Germania sono considerati paesi importanti per fare affari. Ma come mai non sentiamo mai parlare del primo ministro italiano? Forse che tra Italia e Cina non ci sono buoni rapporti? Forse l'Italia non considera la Cina importante per gli affari? Forse potreste girare questa domanda a qualche politico e chiedere come mai i cinesi sanno tutto della Francia e Germania e poco o nulla dell'Italia. Fabio. Vorrei spiegare perché non intendo andare a votare. Per le europee non voto perché non trovo nessun candidato degno di essere votato. Per la maggior parte sono candidati di comodo, di ripiego, personaggi da sistemare. Sono poi rimasta sbalordita nel sentire che verrà scelta una candidata tra le veline. Ma se vogliamo proporre una bella ragazza, andiamo almeno a sceglierla nelle università, dove tante belle ragazze si laureano e spesso con 30 e lode. Così sì che potremmo avere una rappresentante valida per l'Italia. Non voto per la provincia in quanto non ne capisco l'utilità. C'è già la regione, ci sono i sindaci nelle città. Per ultimo, non voto per il referendum perché non so per cosa dovrei dare una preferenza. Non viene pubblicizzato né spiegato. Ho sempre votato per il referendum, aborto, divorzio, eccetera, perché ritengo che il referendum sia un valido strumento. Ma in questo caso non so di cosa si tratti. Inoltre, mi sento manovrata, per cui non voto. Ines Anna. Caro direttore, allora per il referendum si voterà il 21 giugno, nel giorno dei ballottaggi per le amministrative. Sarà certamente difficile raggiungere il quorum. Quindi, la speranza di cambiare questo sistema elettorale dovremo rimandarla alle calende greche. Alfredo. Caro Alfredo, è vero. L'accorpamento tra elezioni europee e referendum avrebbe quasi automaticamente garantito il raggiungimento del quorum. Ma non è detto che questo risultato non lo si possa raggiungere anche 15 giorni dopo. Una significativa affluenza alle urne sarebbe un segnale importante per la politica e costringerebbe i partiti a una revisione della legge elettorale. Ma anche se il quorum non sarà raggiunto, la politica non potrebbe trarne degli auspici positivi. Non è una bella democrazia, quella che si basa sulle astensioni. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.